Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un pezzo davvero gradevole questo di Che con Strange World, ascoltato alle 21:16 minuti primi, e siete sempre con Blu Radio Veneto. Le voci sono quelle di Flavio e Maurizio, alle quali si aggiunge un altro Maurizio, e diamo subito il benvenuto a Maurizio Solieri, che abbiamo ospite dall'altra parte del cavo telefonico. Buonasera Maurizio. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Bene, qua bene. Benissimo, poi quando abbiamo il piacere di sentirti ancora meglio. Per me è un piacere anche parlare con una radio che trasmette della buona musica, per me è la cosa fondamentale. Assolutamente, assolutamente. Sì. Anche perché, tanto per andare al di là della scaletta, tu sei una vecchia conoscenza delle radio libere ancora. Assolutamente, certo, io ho incominciato la mia carriera, prima ancora di fare il musicista. Ho cominciato nel 1977 con Vasco Rossi, con Massimo Riva, eccetera, eccetera, nella famosa Punto Radio, per cui io ho lavorato per anni fino all'85 facendo dei programmi specializzati nelle radio private, per cui insomma sono un grande amico delle radio e delle loro programmazioni, soprattutto quando fanno della buona musica. Qual era la nostra famiglia praticamente? Volevo chiederti qual era la musica che sparavi all'interno di Punto Radio. Ma guarda, io ho incominciato all'epoca, ti dico, parliamo della fine degli anni 70, avevo appena finito il militare e questo mio amico che suonava la batteria nella mia band all'epoca era compagno di scuola di Vasco Rossi, che chiaramente nessuno conosceva come artista. Era conosciuto come DJ nelle discoteche dell'Emilia Romagna e in questa radio che aveva mosso i propri passi da ben poco tempo. Io all'inizio facevo delle cose complicatissime, facevo dei programmi. Il primo programma che feci appunto radio fu un programma di jazz, si chiamava Jazz Time, e che durava una mezz'oretta, in cui parlavo di tutte le nuove uscite dei jazzisti, eccetera eccetera, una cosa molto molto per specialisti. E poi comunque nell'arco della mia carriera radiofonica ho sempre fatto dei programmi legati soprattutto alle notizie musicali, al giornalismo musicale, ovvero è uscito il nuovo di David Bowie, ne parliamo e mettiamo sul pezzo corrispondente, insomma una cosa del genere. Poi anche interviste a grandi artisti sia internazionali che italiani. Come stiamo facendo noi adesso, allora? Facciamo le anteprime. Insomma, voglio dire, io ho intervistato dei grossi nomi internazionali, insomma, sono molto onorato di quello che mi state dicendo, assolutamente, insomma. Una curiosità, Maurizio, a che ora trasmettevi? L'orario notturno o l'orario di pomeriggio? Dunque, i programmi specialistici, diciamo, di notizie musicali erano suddivisi in pillole, per cui fa conto all'inizio di ogni ora, prima del TG, del radiogiornale, c'era la notizia, eccetera, eccetera. Oppure il programma di jazz, che durava una mezz'oretta, andava sempre intorno alle 10:30, 11:00, insomma. Perché è chiaro. Certo, perché a quell'ora che gli specialisti vengono fuori. Lo specialista, tipo vampiri, escono dalle loro bare e vanno ad ascoltare la buona musica. È proprio questo, è proprio giusto. In effetti, diciamo che anche all'interno di Blu Radio Veneto le ore più ascoltate sono naturalmente quelle serali. Sono molto contento. E quindi tu sei in mezzo ai nostri ascoltatori e ci parli di te e soprattutto di quella che è la tua nuova avventura, chiamiamola così, datata 2010, con questo volume 1, un CD che sta girando da un mese circa. Sì, esatto, è uscito il 12 di marzo, è un CD che assolutamente da qualche anno volevo fare, dedicatissimo al pubblico, al mio pubblico che ha voglia di ascoltare della buona musica, e soprattutto anche per sfatare il fatto che non è vero che anche in Italia non si possano fare dei dischi rock di alto livello, insomma, di un livello sicuramente paragonabile a quello che può succedere sia in America che in Inghilterra, insomma. Poi sappiamo tutti che spesso e volentieri i grossi network radiofonici preferiscono, per un fatto commerciale, trasmettere musica pop anche abbastanza sciapita o anacquata, hai capito? Però non per questo manca il pubblico che ha voglia di ascoltare della musica di qualità. E per cui niente, io insomma non volevo fare un disco assolutamente, non ho detto mi metto lì, faccio un disco che farà chissà quali numeri, che venderà farà. Io sono completamente conscio di quello che potrà fare il mio disco. Venderà qualche migliaio di copie, si venderà discretamente ai concerti, eccetera, sì, eccetera, eccetera. Ma l'ho voluto fare per dimostrare che, insomma, voglio dire, un chitarrista come me, un musicista come me, che comunque è legato da sempre e nasce dal classico rock and roll e da blues, doveva per forza prima o poi fare un disco del genere, dedicato a chi voglia ascoltare questa musica. Chiuso, basta. Certo, poi tu hai detto, ho voluto mettere il mio nome e la mia faccia. Soprattutto. Ma assolutamente, certo. Cioè, se non lo faccio io, hai capito bene o male, che insomma nella mia carriera, devo dire, grazie anche alla collaborazione, all'amicizia e ai pezzi che abbiamo scritto insieme con Vasco, insomma, bene o male abbiamo portato avanti e portiamo avanti un discorso sempre comunque di qualità, perché anche se Vasco Rossi riempie gli stadi, ha un pubblico che va dai 90 anni ai 5 anni, hai capito, alla fine quando noi andiamo sul palco la parola d'ordine è sempre: ragazzi, andiamo a divertirsi e fare della buona musica. Quindi per me questa è la cosa fondamentale. Una cosa che ho letto: hai aperto i concerti dei Deep Purple. Come mai Deep Purple? Un tuo amore giovanile? Allora è capita, beh, sicuramente i Deep Purple fanno parte di una delle band che quando avevo 15, 16, 17 anni ho ascoltato di più, e mi ricordo ancora, ti parlo proprio del 70-71, i Jukebox, hai capito, con i primi brani dei Deep Purple, come Hush, come sì, Strange Kind of Woman, eccetera, eccetera. Il discorso è nato così: io stavo missando il mio disco in settembre a Bologna, allo studio Phonoprint, che è lo studio di registrazione dove praticamente abbiamo creato un po' tutta la nostra storia, da Vasco alla Steve Rogers Band, a tutti i progetti in cui mi sono trovato coinvolto, che comunque anch'io ho prodotto, da Class, da un disco che feci nel 98 con Fernando Proci di RTL che si chiamava Processoglieri, eccetera, eccetera, per cui stavamo incominciando a mixare e è arrivato una persona, un amico di Barley Art, della più grande agenzia rock italiana, ha ascoltato il mio, diciamo, prodotto che si incominciava a mixare, ha detto: mi piace da morire, stupendo, un italiano che fa queste cose, eccetera, eccetera, ti andrebbe di aprire il tour dei Deep Purple, anche se c'è un cachet miserando? Certo, assolutamente sì, trovandomi davanti a un pubblico di veri rockettari, insomma, è stato bellissimo, abbiamo fatto 6 date aprendo per i Deep Purple e devo dire che facevamo un mini show di mezz'ora in cui la gran parte era formata da brani assolutamente inediti, che sarebbero stati quelli che da marzo in poi sarebbero entrati nel mio disco, insomma nessuno li conosceva, però il pubblico del rock, quello vero, sa discernere quando la musica è buona o è cattiva, per cui la cosa è andata molto bene, è stata molto divertente, spero di prossimamente di poter fare anche altre aperture prima di grandi gruppi rock. Bene, benissimo, difatti il tuo disco si è ispirato sempre tra virgolette ai tuoi amori, Led Zeppelin, certo, Pink Floyd ed altre cose, altri chitarristi, ma tu sì, si sono ispirati, ma basta, poi la musica è tua chiaramente. E tu che produci, che sviluppi mia, il discorso. Certo, i brani sono tutti scritti da me, però ho voluto, cioè non è che mi sono messo a tavolino. Pronto? Pronto? Deve essere caduta la linea. È caduta la linea. Non lo sento più, difatti, ma tra poco allora ritorneremo a parlare con lui. Nel frattempo allora, Maurizio, visto che stiamo cercando di ripristinare il collegamento, sì, mettiamo con sul singolo, Solieri, mettiamo sul singolo, ovvero Money, nel frattempo riprendiamo la linea per poi poterne parlare, certo, con lui. Alive. I believe in a miracle. That's all you ever wanted from the start. Warning was gonna pay your bills now that I'm gone. Every morning was satisfied. I was trying to stay out of the sea. I'm a living by alibis. My truth is a very good lie. That's all you ever wanted from the start. Warning, who's gonna pay your bills now that I'm gone? Yeah, buddy. Your steps, don't fall on your knees. You don't believe in a miracle. You keep wondering where I did right. Every morning less satisfied. You're trying hard to stay in the sea. Now you're living your alibis. Your truth is a very good lie. That's all you ever wanted from the start. Warning, who's gonna pay your bills now that I'm gone? Yeah, money. That's all you ever wanted from the start. Warning, who's gonna pay your bills now that I'm gone? Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato il primo pezzo in programma per quanto riguarda la presentazione del nuovo lavoro di Maurizio Soglieri, che si intitola Volume Primo, Volume 1. Lo sapremo meglio da Maurizio, che è giusto in collegamento telefonico con noi. Ancora buona serata, Maurizio. Esatto, allora, visto che è un disco che ho voluto fare assolutamente dedicato a uno stile musicale che viene naturalmente dall'estero, dall'Inghilterra, dall'America, e visto che comunque è tutto un po' concepito secondo questo concetto anglo-americano, io lo pronuncerei, voglio dire, poi tutti sono liberi di fare quello che vogliono, sì. Però io lo pronuncio Volume 1, hai capito? Ah, Volume 1. Può scrivere anche, si può anche dire Volume 1, certo, certo. Nello stesso modo, hai capito, assolutamente. L'importante... No, io lo pronuncio Volume 1, insomma. Ci sarà un Volume 2 allora, anche, oppure no? Ma guarda, io, sai, allora ti dico, questo disco è nato anche dalla richiesta di una certa parte di fan che mi chiedevano da anni perché non facevo un disco mio, eccetera, certo, eccetera. Allora, visto che io nel cassetto ho tantissima bella roba, bel materiale di questo stile, capito? Proprio assolutamente nello stile più classico del rock, dell'hard rock, del blues, delle cose acustiche, anche qualcosa di country, eccetera, eccetera. Sicuramente, voglio dire, chiaramente vedendo un po' come funziona questo, come funzionerà questo disco, però sicuramente ne farò un altro, insomma, magari anche con un DVD dal vivo, insomma, io sono sempre una persona che va avanti, hai capito, che ama, che è creativa, per cui il mio prossimo passo, diciamo, è quello magari di fare un DVD dal vivo con dentro qualche pezzo inedito, vediamo, insomma, comunque materiale ne ho, non mi manca certo il materiale per fare dei dischi, assolutamente. Con questo da solo hai alzato dalle sedie tutti quanti praticamente. Almeno hai dato un bel pathos, un bel colpo, guarda, di stomaco. Io suono, sai, io sono un chitarrista che nasce autodidatta, no? Sai, tutti quanti, meno male, sai, quando passano gli anni, sai, uno dice, ah, sai, cazzo, Soglieri, qua, su e giù, sai, io sono 33 anni che sono in pista, no? Sì, certo, sì. Certo. Sai, più vado avanti, più mi chiamano maestro, no? E già mi fa scappare da ridere quando mi chiamano maestro, capito? Sì. Perché io non sono assolutamente, cioè, io sono un autodidatta, uno che ha imparato da solo, che è andato a lezione da bambino dal maestro della banda del suo paese, perché venivo da un piccolo paese della provincia di Modena, per cui non è come adesso dove ci sono scuole musicali specializzate, dove tu vuoi fare, hai capito, lo speed metal, ecco, hai esattamente l'insegnante che ti insegnerà il canone e gli stili precisi dello speed metal. Io vengo dalla strada, hai capito, nel senso che comunque ho imparato la musica dai dischi e ho cercato comunque sempre fin dall'inizio di utilizzare gli stili che andavo ascoltando, però di metterci sempre un po' del mio, insomma, che poi è la cosa fondamentale, perché poi la personalità, devo dire, che alla fine è quella che paga alla fine di tutto, insomma. E per cui questo disco voleva essere assolutamente hendrixiano. Io ho amato e sono rimasto sconvolto da Jimi Hendrix quando avevo 14 anni, l'ho visto anche dal vivo nel 68, hai capito? Per cui figurati, sono rimasto assolutamente colpito da questa cosa. E Jimi Hendrix, e poi questo non lo dico solo io, continuiamo sempre a leggere e aprire giornali dove Hendrix, e poi adesso è uscito questo Valley of Neptunes, con alcuni inediti, con altre cover, con altre, diciamo, alternate take, eccetera, eccetera. Io sono a Torino in questo momento perché stiamo facendo, domani o dopodomani finiremo gli 8 concerti di Vasco Rossi a Torino, e per cui niente, ieri sono stato in un bellissimo negozio di strumenti musicali, un mio amico per il mio compleanno mi ha regalato un cofanetto di Jimi Hendrix con la maglietta dentro, con le riproduzioni dei pali, insomma, voglio dire, Hendrix rimane sempre, insieme a Jeff Beck, il chitarrista più moderno che ci sia, non c'è niente da fare, insomma, sono loro i più moderni, poi ce ne sono mille altri bravissimi, Joe Bonamassa, John Mayer e tanti altri, però quando tu ascolti Jeff Beck, è uscito anche fra l'altro un nuovo di Jeff Beck, tu ascolti Over the Rainbow suonata da lui o Nessun Dorma di Puccini e ti viene il triplo contropelo, hai capito? Certo. Così. Allora, si parla nella tua biografia di una chitarra acustica Echo da 8.000 lire, sì, comprata qualche tempo fa. Ce l'hai ancora? No, quella non ce l'ho, non so. Credo che sia finita. Allora, la chitarra me la regalò mia mamma quando avevo 9-10 anni. E poi, visto che, insomma, praticamente, sai, io vengo da una famiglia in cui sono tutti laureati, io dovevo fare il medico, no? Sì. Allora, morale, già a scuola, appena scoprì la chitarra, scoprì, diciamo, tutti questi nuovi chitarristi anglo-americani dei primi anni 60, metà anni 60, dai Beatles agli Stones, a John Mayer, Hendrix, Cream, Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, eccetera, eccetera, alla fine la chitarra diventò la cosa più importante. Credo che la chitarra finì buttata giù da una finestra, distrutta in mille pezzi, perché mia madre si incazzò perché non studiavo, capito? Succede spesso. Dovrebbe essere una cosa del genere. Okay. Succede spesso, se c'era anche un pianoforte di mezzo. No, il pianoforte non l'avevo, però la chitarra sicuramente è andata a finire in mille pezzi. Non volevo dire, era più pesante il pianoforte, quindi meglio la chitarra, soprattutto per chi passava sotto in questo caso. Però il primo disco che ha ricevuto in regalo sono stati i Beatles, mi pare. Sì, diciamo che dunque, mio fratello alla fine degli anni 50 andò a, vinse una borsa di studio, andò un anno negli Stati Uniti e fisse là, fa conto, fra il 59 e il 60, tornò con un pacco di dischi di Elvis, di tutti i rockettari, di Buddy Holly, di tutti i rockers anni 50, per cui sai, per me fu una roba incredibile, allucinante ascoltare queste cose, vedere queste copertine. Poi mia sorella più grande nel 63 andò a Parigi e tornò col primo disco dei Beatles, per cui insomma mi ha dato man forte anche quello, insomma diciamo che sono stato battezzato bene, ecco, nella mia infanzia. Benissimo. Certo. Allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando con Maurizio Soglieri per l'uscita anche di quello che è il suo nuovo lavoro, si intitola Volume 1, e ci sono ben 11 pezzi un po' strumentali, un po' cantati rigorosamente. Ci sono 5 brani cantati in inglese perché... Sì. Cioè voglio dire, io volevo fare assolutamente un progetto che fosse di stampo anche abbastanza internazionale come concetto, e la lingua inglese è la lingua giusta per il rock, insomma. Sì. I testi li avevo abbozzati io, però sono stati diciamo rifiniti e diciamo resi cantabili, resi diciamo con la scrittura giusta da Michele Luppi, che è un mio amico collaboratore, che fra l'altro canta nel disco e duetta con me in Please Believe Me e fa i cori in un sacco di pezzi, e dal vivo fa parte della band live mia. Tra l'altro ricordiamo che il 24 di aprile, cioè io mi faccio un mazzo così della serie, allora fino al 22 sono a Torino a farmi i concerti di Vasco, sì. Poi torno a casa il 24 mattina. Pronto? Pronto? Abbiamo sempre il solito collegamento, si vede qualcuno ci vuole bene. Quindi, vabbè, non importa, cerchiamo di riprendere il collegamento con Maurizio. Nel frattempo ci ascoltiamo un altro pezzo del suo lavoro che si intitola Blues in B Minor ed è una vena blues di tutto rispetto di Maurizio Soglieri. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora in diretta. Abbiamo ascoltato un pezzo davvero fantastico, un blues in B minor, Maurizio Soglieri, Volume 1, e l'abbiamo anche a telefono per commentare, esatto, insieme questo pezzo davvero bello. 5 minuti e 6 secondi, però passati in frettissima. Sono molto contento, guarda, fra l'altro, allora, il mio progetto è nato proprio da questo brano, da Blues in B minor, che fra l'altro era un pezzo sotto altro arrangiamento che era stato concepito dal sottoscritto e scritto da me stesso alla fine degli anni 90, in un progetto che poi non decollò mai perché non andammo avanti per questioni di impegni vari eccetera eccetera, che si chiamava Chitarre d'Italia, era un trio acustico con Dodi Battaglia e Franco Musside della PFM. E però il giro d'accordi mi piaceva, l'atmosfera mi piaceva, anche se era completamente diversa. Il brano originariamente era più latineggiante, più santaneggiante. E allora praticamente quando io e Mimmo Camporale ci mettemmo a incominciare a pensare a quello che poteva essere la preproduzione di questo disco, siamo partiti da Blues in B minor. Ho detto proviamo a farlo interfinato con questa atmosfera tipica la Gary Moore, e niente, comunque è venuta questa cosa e sono molto contento, sai, perché è un pezzo molto per specialisti, per palati fini, hai capito? Certo, certo. Però vedo che piace moltissimo. Piace molto. Vedo che non sei la prima persona, anzi spesso e volentieri è uno dei brani che piace di più dell'intero album. Anche perché i primi tre pezzi ti levano proprio il sangue, no? Da fuori. Sono tre pezzi molto tosti, tirati, molto tirati. Certo, per cui proprio questo Blues in B minor arriva a darti un po'... Ti rilassa, ti apre un attimino, ti fa pensare un attimo... Però bene, insomma, ti stavo dicendo prima che fino a più o meno la metà di maggio ho un carnet molto fitto di impegni, no? Allora adesso domani e dopodomani, ovvero 21 e 22 di aprile, ultimi due concerti con Vasco a Torino. Torno a casa il 23, 24 mattina parto con la mia band, andiamo giù a Roma perché facciamo la presentazione del mio disco in un bellissimo locale che si chiama Crossroads, dove presento il mio disco, facciamo uno showcase dal vivo, eccetera, eccetera. Dopodiché ho una settimana di stop in cui spero di riposarmi un po'. Il 3 maggio partiamo per Londra e andiamo a fare quelle quattro date con Vasco all'estero, torniamo il 13, il 14 ho un giorno di prove perché poi il 15 maggio c'è un grandissimo concerto a Bologna in Piazza Maggiore organizzato nell'ambito della fiera degli strumenti musicali eccetera eccetera, della settimana dedicata appunto alla chitarra eccetera eccetera, c'è un mega concerto rock dove io apro con la mia band, suonerò 4-5 pezzi, poi saliranno sul palco con me Ricky Portera e Max Cottafavi, faremo, non so, dobbiamo ancora decidere, faremo delle cose insieme, e poi parte questa lunga cavalcata con una marea di chitarristi, da Yngwie Malmsteen a Josh Lynch a Timo Tocchi, Steve Burns, insomma una marea di musicisti americani che faranno questo mega concerto. Dopodiché il 16 giorno dopo in fiera a Bologna farò alle ore 16 nello stand della Marshall un mini showcase, non so, 40 minuti, un'ora, eccetera, eccetera, presentando il mio disco, e quindi fino al 16 c'ho veramente un bel po' di cose da fare. Molte cose. E quindi siamo stati anche fortunati a trovarti in questa serata libera dove ti abbiamo un po' rotto, diciamo così. No, assolutamente. Parlare di musica è sempre una cosa piacevolissima per certo, me. Certo, anche noi lo facciamo ben volentieri, certo, e soprattutto certo. La nostra radio proprio sposata anche a questa. Bene. Io, sai, le radio che sposano il buon rock and roll sono tutti i miei amici, assolutamente. E come tradizione di Rock Wave, non si taglia mai niente, quindi fino all'ultima goccia anche fino tutti i tuoi pezzi. Fantastico. Allora vuoi che ti parli un po' dell'ultimo brano che manderete? E prima vorrei che mi parlassi della formazione della band con cui suoni adesso, cioè nel disco praticamente. Allora nel disco c'è, vabbè, le chitarre e i bassi li ho fatti io, avevo chiesto al Gallo di fare qualcosa, ma era un periodo in cui aveva dei problemi alla mano sinistra per cui non è riuscito a suonare, per cui alla fine mi sono divertito a suonare il basso. Bene. Da solo, diciamo. Gallo è Claudio Golinelli. Claudio Golinelli, esatto. Detto il Gallo, esatto. E batterie, sono tre batteristi, sei brani li ha suonati Adriano Molinari, batterista di Zucchero, molto bravo, che mi ha seguito in tour con qui Deep Purple e che comunque sarà presente nei due concerti sia del 15 maggio in Piazza Maggiore che del 16 in Fiera Bologna nello stand della Marshall. E dopodiché c'è Beppe Leoncini, che comunque fa parte della band di base, diciamo, con cui ad esempio farò il concerto di Roma il 24. Beppe Leoncini, batterista della Steve Rogers Band, e Daniele Tedeschi, che ha suonato anche lui un paio di brani nel disco, fra cui anche questo Please Believe Me, che forse rappresenta un po' il fiore all'occhiello dei 10 brani. È una ballata che ho composto una decina d'anni fa, fatta in tutte le versioni possibili e immaginabili. A un certo punto ho voluto fare la classica power ballad stile November Rain, e alla fine ci voleva una vera voce, perché io canto, mi diverto a cantare, ma non mi considero sicuramente un cantante che può fare un concerto intero. Allora ho chiamato il mio amico e collaboratore e collega e grande cantante, che si chiama Michele Luppi, cantante che è stato cantante di Vision Divine, adesso ha questa band che si chiama Killing Touch, eccetera eccetera, anche lui produttore, che ha fatto un paio di progetti per gli Stati Uniti che si chiamano Los Angeles One e Los Angeles Two, insomma è un cantante della Madonna veramente. E alla fine niente, l'ultimo brano, che forse è il pezzo più bello, più melodico, più che mixa Guns N' Roses insieme ai Queen, insieme agli Aerosmith. Abbiamo sempre questo problema, cerchiamo di ripristinare la linea. Intanto, se vuoi dire qualcosa. Sì, volevo citare, tu hai citato Michele Luppi, nelle sue dichiarazioni a proposito di questo disco parla di un cantante di rock hard metal. Adesso vogliamo chiedere un momento a Maurizio, rock hard metal, cioè è una cosa molto interessante. È un disco molto interessante in tutti i sensi, cioè musicalmente parte dalla melodia, poi si sviluppa in senso decisamente rock, poi ritorna nella melodia e poi ci sono le improvvisazioni, cioè i temi cari a Maurizio Solieri, che adesso sta arrivando in linea, chiaramente, eccolo qua, qualche secondo, sì, è arrivato, sì, ci siamo, quasi, eccolo qua, è un disco, quindi, eccolo qua, ci siamo, sì. Maurizio, mi senti? Maurizio? Stavo parlando un momento, tu hai citato Michele Luppi, hai scritto una dichiarazione, è un grande cantante di rock hard metal. Sì, esatto. Cioè uno che ha una potenza notevole. Ha una potenza vocale notevolissima, lui è specializzato nell'heavy metal, nell'hard rock e nel prog, nella progressive. Ci conosciamo da almeno 10-12 anni, è stato una delle pochissime persone, sai, quando vai in giro che magari arriva il ragazzo che ti dà il demo, il CD eccetera eccetera, è stato uno dei pochissimi che quando mi ha dato il demo l'ho messo su, ho detto questo è veramente è forte cioè veramente ha un grandissimo carisma, una voce della Madonna, ha parlato una persona deliziosa e quindi assolutamente insostituibile all'interno sia della mia band sia dei miei progetti futuri, assolutamente, perché tra l'altro voglio citare anche che canta una strofa e suona anche l'armonica bocca ed ha questo tocco molto Aerosmith al secondo brano che si chiama Twisting Your Soul, sì, al sì. Mio grande amico Vic Johnson, che per tanti anni è stato il cantante della nostra band, per cui niente, insomma, poi per problemi di lavoro non siamo riusciti a far più di tanto, però sono riuscito a fargli fare questa strofa e fargli suonare l'armonica. Lui è un vero specialista dell'armonica rock blues e anche ha una voce molto molto molto dedicata a questo genere musicale, insomma. Comunque, come sempre nei miei dischi chiamo i miei amici, si sente che è un disco che ti piace, che molto, sei molto, molto contento che sia uscito. Sono molto soddisfatto e ti dirò anche una cosa, è un disco che ho prodotto io dal punto di vista sia artistico sia dal punto di vista economico. Volevo fare una roba proprio, cioè non volevo avere, cioè ormai sai, i discografici sono sempre lì che piangono oppure vanno ai reality show a cercare quello che secondo loro sono i nuovi artisti, cioè, per il futuro, non sanno che sono solo cantanti da piano bar, insomma, che alla fine dopo qualche mese non faranno più niente, perché la personalità non basta avere una tecnica musicale, insomma ci vuole personalità, quella che manca adesso, insomma, ma non perché magari non ci sarebbe, perché non la fanno venire fuori, insomma. Per cui alla fine ho voluto fare tutta una cosa mia, spese mie, eccetera, eccetera, lavorando con gli studi di registrazione che conosco da sempre, con cui lavoro da sempre, con la Fonoprint di Bologna, con lo studio dove fa i dischi anche Vasco Rossi, ovvero il Digital Studio, col Big Studio di, insomma, con tutti gli amici e tutti i grandi professionisti con cui lavoro da tanti anni a questa parte. È un disco che ho seguito passo a passo, dalla copertina al missaggio al mastering, tutto quanto. Mi sono fatto veramente un bel mazzo, però alla fine sono molto soddisfatto del risultato. Fantastico. E questo, io credo che chi ama il buon rock non possa non apprezzarlo, certo, al certo. di là delle vendite, al di là del successo, al di là di tutte quelle cose lì. Cosa ha detto il buon Vasco del tuo disco? Gliel'ho dato, ma non mi ha ancora detto niente, perché adesso sai, siamo sempre impegnati a fare i concerti, per cui non ho avuto neanche il tempo di chiederglielo. Comunque ce l'ha. Okay, sicuramente. Certo. Vabbè, allora Maurizio, grazie di essere stato con noi, ci hai dato proprio modo di conoscere la tua musica in Volume 1, esatto. È uscito appunto da... E niente, cercate sì. comunque di promuovere sempre la buona musica, sì. Al di là di quello che vogliono far passare per, hai capito, i generi musicali di grande successo, insomma, il pubblico. Io voglio ricordare una cosa, che di questi tempi, se andiamo avanti così, solo con i talent show non nasceranno più grandi artisti. Non, scordatevi i nuovi Vasco Rossi, i nuovi Lucio Dalla, i nuovi De Gregori, i nuovi Fabrizio D'Andrea, eccetera, eccetera, perché storicamente non c'è la possibilità, perché degli artisti si possano crescere, nascere e poter andare avanti per diventare dei protagonisti certo. del futuro. Insomma. Oserei dire che gli artisti bisogna andarli a trovare al Busker Festival in questo caso, no? Ma senza andare al Busker Festival basterebbe soltanto, hai capito, dar modo a chi ha talento di poter fare come abbiamo fatto tutti, sì. Perché voglio dire, Vasco Rossi ci ha messo 6-7 dischi prima di arrivare al grande successo, certo, e adesso, hai capito, ci si ferma solo all'Isola dei Famosi o a X Factor, cioè, sicuramente non possiamo avere dei grandi personaggi, abbiamo dei corretti cantante di piano bar. Certo, ed è anche per questo che noi veniamo in radio alla sera, Maurizio, bravo, perché naturalmente bravo. In televisione, a parte le partite, interessanti, non c'è niente. Tra le altre cose, cosa sono? 2-1 per l'Inter, voglio informarvi. Per l'Interisti, 2-1 per l'Inter, un ottimo risultato. Vabbè, allora Maurizio Soglieri, grazie di essere stato noi. Grazie a voi di aver trasmesso la mia musica, e comunque è stata una bellissima chiacchierata, io sono sempre amico di queste situazioni. Bene, ti aspettiamo quando passerai per Padova, okay. Chiaramente. Va bene. Allora concludiamo ascoltando il pezzo che si intitola Please Believe Me. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Said you're coming to town. I keep returning to the place we once found. Can you hear me? I'm not quite the same. Driving all night on a blue Chevrolet. Trying to move on, get rid of the past. Can you see me? My lights have grown cold. Please believe me. Every day I've been trying to dry all my tears. Girl, don't tell me you're hiding your fears. I'm gonna win this game, I'm not him. what it will. Radio Sera. Blu Radio Sera. È sempre una grande emozione parlare con i protagonisti della nostra musica, diciamo, nostrana, e soprattutto con grandi artisti come Maurizio Soglieri, che abbiamo tenuto ospite, gli abbiamo strappato ben 50 minuti del suo tempo, del suo riposo, praticamente li ha dedicati assolutamente del suo riposo, noi, del suo riposo. Sì, perché domani sarà in concerto a Torino con Vasco, si riposava con un po' di dischi di Jimi Hendrix davanti, è una cosa positiva qui. Benissimo, soprattutto col cofanetto che gli ha regalato l'amico. Abbiamo ascoltato Please Believe Me, che tra altre cose non è un pezzo cantato da lui. Per questo pezzo lui è chiamato, appunto, come si ricordava prima, Michele Lupi dei Killing Touch, a cantare, a sostenere, sì, diciamo, proprio un musicista hard, si sente hard, sì. Progressive, anche la voce mi ricordava, mentre il disco passava e c'erano i microfoni spenti, parlavamo con Flavio degli Uriah Heep, mi ricordava un po' gli Uriah Heep. Ecco, bene, si va sempre a ricordare un po' anche altri pezzi lontani, non si finisce mai. Ad esempio, io ho ascoltato anche attentamente il disco di Maurizio Soglieri e in certe situazioni sembrava anche di trovare gli Aerosmith, sì, e poi esattamente, ancora esattamente. I Rolling Stones, Jimi Hendrix naturalmente, quello sempre. E Led Zeppelin, poi naturalmente lui ci ha aggiunto anche Gary Moore, Jeff Beck, questo Slash dei Guns N' Roses, un po' sì, di tutto. Sì, Slash, che tra altre cose ha fatto anche un nuovo lavoro, esatto. Ne stanno parlando bene, devo ancora ascoltare un minuto di quel CD, però insomma arriverà. Mi fido, sì, sì. Arriverà, anzi no, deve essere già in circolazione, sì, no, già, arriverà qui in radio, lo sentiremo anche. Ah, ok, questo. Perfetto, da solo oppure accompagnato? No, da solo chiaramente, no, sempre un CD, perfetto. Vabbè, allora sempre con Maurizio e con Flavio, aspettando le 22:30, ora in cui scatterà Rock Wave, l'onda del rock, per presentare anche un altro pezzo, un pezzo dei Baustelle. Sì, disco nuovo di Baustelle, sta facendo un buon successo, un disco molto interessante, molto bello, non è a livello di Ame di 2 anni fa, però è un disco discreto nel senso positivo del termine. Gli Spietati è un grande pezzo, secondo me, un pezzo che trascina, interessante, adesso lo sentiamo. Blu Radio Sera. Thank you.